Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia. Abbiamo l'ultima settimana in questa versione estiva del nostro programma dedicato alla cronaca economico-finanziaria, dopodiché da lunedì 31 agosto si ritorna alla trasmissione piena, completa, quella che dura un'ora e mezza. Quindi una trasmissione di un'ora ma che non manca di notizie interessanti da raccontarvi. Anche oggi la cronaca economico-finanziaria è sicuramente è rilevante per quello che riguarda le notizie di carattere nazionale ed internazionale, appunto, che commenteremo insieme. Tanto per cominciare la borsa, perché poi quando sono io in conduzione generalmente non la do mai all'inizio, cominciate a lamentarvi. Allora, siccome oggi la giornata è positiva per quello che riguarda i mercati finanziari, togliamoci subito il sassolino e raccontiamo immediatamente quello che è successo quest'oggi, anche se in Europa la seduta non è ancora conclusa ma si sta avviando alla conclusione con rialzi decisi. Quindi dopo una settimana incerta, oggi l'avvio invece sembra più sicuro e promettente. +2.11% per il FTSE MIB a Piazza Affari, +2.30 Parigi, +2.28 Francoforte, Londra +1.65, e anche il mercato americano ritocca ed aggiorna i suoi record, in particolar modo per quello che riguarda lo Standard & Poor's 500, +0.7% in questo momento per l'indice, per quello che riguarda il Nasdaq che è in rialzo di circa lo 0.2, e poi Dow Jones +0.94%. Che cosa succede sui mercati? Da che cosa deriva tutto questo ottimismo? Deriva dal fatto che ormai tutto il mondo scientifico, farmaceutico, medico è totalmente concentrato sulla ricerca e l'individuazione di soluzioni appunto contro il Covid. La Food and Drug Administration negli Stati Uniti ha dato il via libera appunto alla cura con il plasma, anche se per la verità poi i risultati di questa cura non sono così certi, ma questo a quanto pare piace al mercato americano. In Europa abbiamo più o meno le stesse notizie. In Italia, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, è partita la sperimentazione del vaccino appunto allo Spallanzani di Roma, e anche questo appunto piace al mercato, nonostante poi i numeri del contagio siano sempre molto rilevanti a livello internazionale, hanno ricominciato ad essere un po' preoccupanti anche nel nostro paese. Peraltro chissà se ce la faremo in diretta anche a dare i dati di questa giornata. In ogni caso oggi il mercato italiano è molto positivo, in questo momento si punta in particolare sul settore petrolifero. Stamattina la regina della seduta era STM, ST Microelectronics, sempre perché la tecnologia sta trainando letteralmente il mercato americano e di conseguenza tutto il settore anche europeo ed internazionale va dietro a Wall Street. E queste sono le notizie del giorno per quello che riguarda i mercati. Non parleremo per naturalmente solo di questi, i due temi che approfondiremo questa sera. Allora, sapete, per fronteggiare la pandemia qual è l'arsenale che, anche se con tante difficoltà, è riuscita a mettere in campo l'Europa. Oggi parleremo in particolar modo di uno, di SURE, lo strumento europeo nato per sostenere il mercato del lavoro, per proteggere i posti di lavoro, per proteggere i lavoratori. Sostanzialmente è l'ammortizzatore sociale europeo. Chissà se poi al nostro ospite di questa sera piace questa definizione, glielo chiederemo tra poco. È una misura insieme al Recovery Fund, insieme al MES, che peraltro però ancora non è stato chiesto da nessuno, che vuole fornire assistenza finanziaria, un pacchetto totale da 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti concessi dall'Unione Europea agli Stati membri per appunto affrontare tutto ciò che riguarda il mondo occupazione. Qual è la novità del giorno? È che la Commissione europea ha presentato al Consiglio europeo le proposte per attivare questo sostegno finanziario. E l'Italia è in prima linea per quello che riguarda appunto le risorse chieste, l'ammontare più importante, e poi vi racconteremo appunto quali sono stati anche i commenti del giorno da parte di chi è stato in prima linea appunto per la gestione della questione. Ci sono le dichiarazioni del ministro per gli affari europei Enzo Amendola, ma anche del presidente appunto del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, che naturalmente hanno espresso la loro soddisfazione per intanto anche il ruolo che l'Italia si è recavata a suo tempo nella discussione per ottenere questo tra gli altri strumenti. E poi all'Italia arrivano i fondi più consistenti derivanti da tutto il pacchetto, quasi 28 miliardi, 27,4. Cercheremo di capire quale sarà la filiera che si creerà, che si attiverà per far arrivare questi soldi dall'Europa direttamente all'Italia, alle imprese e ai lavoratori, anche se in realtà ancora i dettagli non ci sono, ma cercheremo appunto di capire qualcosa in merito rispetto a chi un po' più nel dettaglio entra in queste dinamiche, anche se dal punto di vista accademico. Poi parleremo, ne avete sentito parlare anche nel giornale radio, del maltempo che si è scatenato, che si è abbattuto in Veneto. Si comincia già, Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza, si comincia la conta dei danni importanti per l'agricoltura, per tutti gli imprenditori del settore. Sentiremo poi Coldiretti che cosa ha deciso di fare, quanto danno ha quantificato rispetto alla appunto alla pioggia, alla grandine che è arrivata su Verona, su Padova e su tante località, come avete sentito, nel Veneto. Oggi c'è stato un summit generalmente preferite che lo pronunciamo appunto all'italiana, non all'inglese ovviamente, essendo più corretto così, appunto presso la sede della Coldiretti di Verona, e chiaramente questo è un settore che già viveva grandi difficoltà per tutte le questioni legate anche alla pandemia, perché anche il settore agricolo ha vissuto naturalmente con tutte le ripercussioni che sappiamo, la crisi legata al Covid, e adesso ci mancava anche in quest'ultimo scorcio d'estate questo dramma del maltempo, e sentiremo appunto quanti danni ci sono stati e che cosa intendono fare gli agricoltori del posto per fronteggiare questa nuova situazione. 349-238-6666 se volete è il numero che potete utilizzare per inviarci i vostri messaggi. Io tengo sotto controllo sia gli SMS che WhatsApp. Adesso possiamo partire con le notizie in breve. Dalla redazione mi fanno notare che c'è chi ha chiesto i fondi del MES, Cipro, essendo forse un'economia piccolina non la consideriamo con la dovuta dignità, e quindi generalmente appunto ci facciamo riferimento appunto alle grandi economie europee quando parliamo di questi strumenti, ma in ogni caso chi ha avanzato una richiesta appunto c'è stato. Allora, le notizie in breve come sempre iniziano dall'andamento delle quotazioni delle materie prime. Per quello che riguarda l'oro, oggi si viaggia intorno ai $1,945 l'oncia. Ricordiamo che la settimana scorsa le quotazioni del metallo giallo hanno superato i $2,000 appunto l'oncia. Per quello che riguarda il petrolio, siamo anche in questo caso al rialzo, a $42,7 al barile, per quello che riguarda appunto il greggio di riferimento americano. Da New York notizie interessanti che arrivano peraltro nella giornata in cui a Charlotte, North Carolina, ha preso il via la convention repubblicana. Allora, gli economisti ritengono che ci sia una possibilità su quattro che ci sia una doppia recessione negli Stati Uniti. È un sondaggio della National Association for Business Economics. L'80% degli economisti è convinto che ci sia un 25% di possibilità di doppia recessione, mentre la maggioranza degli interpellati in questa rilevazione e ritiene che l'economia non sia ancora emersa dalla recessione iniziata in febbraio. I tre quarti degli economisti promuovono la Federal Reserve e la risposta all'emergenza data dalla Banca Centrale Americana, e peraltro di attività della Banca Centrale Americana. Presumibilmente torneremo a parlare anche nella seconda parte della settimana, quando prenderanno il via i lavori di Jackson Hole, del Symposium di Jackson Hole, che peraltro è un evento molto importante di fine estate, appunto, che mette a confronto tanti profili, appunto, per quello che riguarda l'economia mondiale, in particolar modo tutti i leader delle banche centrali. E c'è attesa per l'intervento di Jerome Powell, il numero uno della Banca Centrale Americana, ma va ricordato che questo evento, che peraltro pareva dovesse essere cancellato, lo dicevano in giugno, invece è stato confermato, anche se è in versione digitale, quindi tutti si troveranno appunto a confrontarsi fra di loro, come stiamo facendo noi da qualche tempo, cioè in remoto, a parte chi lavora in radio, pochi conduttori radiofonici, ma per la gran parte dei casi tanti eventi si tengono appunto a distanza, e questo vale quest'anno anche per il simposio di Jackson Hole. Un'altra notizia che riguarda ancora il panorama finanziario: l'emergenza sanitaria provocata dal Covid ha avuto forti ricadute sui dividendi globali, con le aziende che hanno ridotto in modo significativo le cedole per far quadrare i conti, per non parlare poi delle banche che invece sono state invitate a non distribuirli dalle autorità di controllo e vigilanza. In particolar modo in Europa è successo, perché la Banca Centrale Europea ha invitato le banche a essere molto moderate con l'erogazione di dividendi, oltre che ad essere moderate a non distribuirne affatto, almeno per quest'anno. Stando al Global Dividend Index, che è un indice stilato da Janus Henderson, che è un grandissimo gestore di fondi a livello mondiale e che monitora i dividendi appunto a livello globale, nei tre mesi terminati a giugno le cedole sono diminuite complessivamente del 22%, registrando così il calo peggiore dal 2009. In totale sono state staccate cedole per 383,2 miliardi di dollari, il livello più basso dal secondo trimestre del 2012, con un calo di oltre 108 miliardi. Secondo Janus Henderson, per l'intero 2020 è atteso un ribasso complessivo del 19% nell'ipotesi migliore e del 25% nello scenario peggiore. Nonostante i tagli visti fino ad ora, prevediamo comunque che i dividendi pagati a livello globale supereranno i 1.000 miliardi di dollari quest'anno e il prossimo, ha detto il direttore degli investimenti della società. Nonostante questo, comunque, il 2020 si manterrà pessimo e sarà, hanno detto, l'anno peggiore per le cedole dalla crisi finanziaria del 2009. Facebook ha consentito di pagare in Francia oltre 100 milioni di euro di tasse arretrate, lo scrive la stampa francese, spiegando di aver preso visione dei documenti di questa circostanza. La sussidiaria francese di Facebook ha accettato la proposta di adeguamento fiscale da 104 milioni, di cui 22 milioni di sanzioni per il periodo che va dal 2009 al 2018. Facebook non è l'unico big californiano ad essersi accordato con il fisco francese. Agli inizi del 2019 anche Apple ha acconsentito a saldare 10 anni di arretrati fiscali, versando 500 milioni di euro, mentre nel settembre scorso Google si è accordata per pagare 965 milioni, quindi a quanto pare il conto più salato, 965 milioni di euro, in modo da chiudere due contenziosi che la contrapponevano al fisco di Parigi. Andiamo alla cronaca italiana, e allora ne parliamo da questa mattina. Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid, che hanno già ribattezzato Made in Italy, allo Spallanzani di Roma. Questa mattina è stata inoculata la dose al primo volontario, sarebbe una donna di 50 anni. Presenti all'avvio dei test il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, e i vertici dell'Istituto per le malattie infettive della capitale. Proprio Alessio D'Amato, l'assessore alla sanità della Regione Lazio, è intervenuto su questo a Ma cos'è quest'estate stamattina al microfono di Giulia Crivelli. Oggi alle ore 8 è stato inoculato il vaccino sperimentale qui allo Spallanzani. Questa è una cosa molto importante, perché il vaccino Made in Italy, su cui Regione Lazio, Ministero dell'Università e Ricerca hanno investito, ed è un orgoglio e anche un segnale di speranza. Sul tema della vaccinazione, invece, quella che si potrà già fare a breve, che è quella per l'influenza, per quanto riguarda il Lazio, avete l'autorità e soprattutto l'intenzione di renderla obbligatoria? In questa fase fare il vaccino è molto importante, noi l'abbiamo reso obbligatorio. L'ambizione e l'obiettivo è quello di vaccinare oltre 2 milioni di cittadini della nostra regione, soprattutto le persone in una fascia di età dai 65 in su e le persone più fragili, perché evitare confondimenti nella fase autunnale-invernale è assolutamente importante per una sovrapposizione di sintomi analoghi. Allora, intanto, scusate la distrazione, ma sono arrivati i dati sui contagi relativi alla giornata di oggi. Calano i contagi per il Covid in Italia, 953 contro i 1210 riscontrati e rilevati ieri. Quindi sono i nuovi casi registrati appunto nelle ultime 24 ore. 4 le persone decedute, in calo rispetto alle 7 di ieri. I tamponi però sono stati 21.000 in meno rispetto alle ore precedenti, 45.914. Ecco i dati appunto di questa giornata. E intanto sarebbe in corso una trattativa molto importante e rilevante, come sapete è in corso, è una giornata di trattative rilevante oggi tra il governo e le regioni Lazio e Sardegna per trovare un accordo sulla reciprocità dei tamponi da effettuare prima degli imbarchi su navi aerei dall'isola e dopo gli arrivi a destinazione. Il ministro degli affari regionali Francesco Boccia sta mediando fra le richieste del Lazio e i paletti indicati dalla Sardegna per dare corso ai test nei propri porti e aeroporti. L'assessore alla sanità della Sardegna, Nieddu, ha chiarito che la regione è pronta a dire sì, a patto che si rispettino 3 condizioni. I controlli devono essere sotto l'egida e a carico del governo. I passeggeri di tutti i voli e le imbarcazioni in partenza per la Sardegna vanno sottoposti a tampone rapido. Infine, la firma di un protocollo per il rientro in sicurezza nelle loro abitazioni dei positivi. Vedremo insomma come proseguirà anche questa vicenda. Intanto da oggi docenti, ATA e personale scolastico potranno fare in tutte le regioni i test sierologici partiti nei giorni scorsi nel Lazio e in Toscana. A disposizione ci sono circa 2 milioni di test prelievi. Di 2 milioni di test e i prelievi che restano volontari perché voglia sottoporvisi dovranno concludersi 7 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. In caso di positività, al massimo entro 48 ore andrà effettuato il tampone. E quindi anche questa è una notizia importante, da oggi tutti i docenti potranno fare appunto in tutte le regioni questi test sierologici. Intanto e dovrebbe essere iniziato intorno alle 16 o poco più avanti, insomma, il vertice di governo sulla riapertura delle scuole oggi a Palazzo Chigi. Conte dovrebbe aver incontrato per fare un punto della situazione la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Conte, ricordiamo, era di rientro da Amatrice e quindi anche da questo vertice ci aspettiamo oggi altre notizie sull'appuntamento molto importante di riapertura delle scuole. Io direi che per le notizie in breve possiamo anche chiudere qui, andando subito naturalmente al primo tema di oggi, perché chiaramente siamo molto preoccupati inevitabilmente per la riapertura delle scuole, per la ripresa a pieno ritmo di tutte le attività economico-produttive, ma intanto appunto in sede europea si continua a discutere come potranno essere sostenute le economie europee tutte alle prese con la gestione dell'emergenza Covid e oggi arrivano novità importanti per quello che riguarda il fondo SURE. Partiamo. In questi mesi di di una prova durissima che abbiamo dovuto affrontare noi a livello individuale, a livello nazionale, a livello internazionale, a livello mondiale, abbiamo cercato anche di seguire il dibattito europeo che ha dovuto mettere in campo strumenti totalmente nuovi rispetto al passato per fronteggiare un'emergenza totalmente nuova, appunto, che è stata proprio quella della pandemia, e quindi con delle discussioni che in certi momenti sono state anche molto molto molto dure, si è riusciti poi a trovare la quadra, come ricorderete, in giugno, attorno a questi strumenti che dovranno essere utilizzati da paesi europei per far ripartire l'economia. Strumenti di vario tipo, noi abbiamo conosciuto tanti termini in queste settimane: il Recovery Fund, il MES. Oggi ci concentriamo sullo SURE, il Support to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency, e quindi è proprio quel supporto destinato a mitigare tutti gli effetti derivanti da questa emergenza sull'occupazione. Oggi la novità qual è? È che la Commissione europea ha presentato le proposte al Consiglio europeo per attivare questo sostegno finanziario, che complessivamente ammonta a 100 miliardi di euro, ma si tratta, almeno fino a questo momento, di cominciare ad attivare 81,4 miliardi. Ad Italia andrebbero 27,4 miliardi, ma di che cosa si tratta esattamente questo ammortizzatore sociale europeo? Va bene se lo definiamo così? Lo chiediamo al professor Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienza delle Finanze, direttore dell'Istituto di Economia e Finanza all'Università Cattolica di Milano, ma anche componente dello European Fiscal Board, quindi le dinamiche europee le conosce sicuramente meglio di noi. Professor Bordignon, buonasera. Buonasera a lei. Allora, è importante la notizia di oggi, ci aiuta a capirlo se si tratta di un passo avanti concreto o se ancora siamo poco più che alle schermaglie politiche rispetto alla distribuzione di questo pacchetto di fondi, che è comunque un pacchetto enorme e rilevante. No, non si tratta di schermaglie politiche, cioè questa è la commissione, il SURE come meccanismo è già stato approvato dal Consiglio a giugno, quindi è un meccanismo che è perfettamente in funzione. Adesso i paesi hanno presentato delle richieste di finanziamento, sono stati 15 paesi, poi se ne aggiungeranno già altri due, sono sotto verifica, e la Commissione ha fatto un'analisi delle richieste da parte dei paesi e ha fatto una proposta al Consiglio. Il Consiglio dovrà valutarla e poi, secondo me, con molta tranquillità approvarla. In che cosa consiste? Consiste sì in un supporto per i paesi per quanto riguarda gli interventi sul mercato del lavoro. Si tratta di un prestito e quindi naturalmente i paesi che hanno richiesto queste risorse sono piccoli paesi o i paesi sono stati più colpiti dalla pandemia, ma sono anche quelli che poi hanno più difficoltà ad accedere ai mercati, come nel nostro caso, perché paghiamo tassi di interessi più elevati rispetto agli altri, e quindi il vantaggio è che possiamo ottenere queste risorse a tassi di interesse più bassi di quelli che otterremo sul mercato. Mm-hmm. Noi abbiamo ottenuto 27,4 miliardi, l'ha già detto lei, quindi la quota più alta, però se lei guarda in proporzione al PIL dei paesi, più o meno tutti hanno ricevuto la stessa cifra, 1,3-1,4% del PIL. Perché questa appunto è la dinamica, cioè nel senso che sono fondi che vengono stanziati anche in base alla ricchezza nazionale. Sì, in teoria sono legati esplicitamente alle spese che ciascun paese ha sostenuto o anche che aspetta di sostenere nel campo del mercato del lavoro per sostenere appunto l'occupazione, quindi quindi fondamentalmente stiamo parlando della cassa integrazione, stiamo parlando anche di tutti gli interventi specifici che abbiamo introdotti per il mercato per i lavoratori autonomi, le partite IVA e quant'altro. Gli altri paesi hanno sistemi lievemente diversi e quindi la Commissione avrà dovuto anche verificare la congruenza di queste richieste rispetto a questi interventi. Però naturalmente noi in questi mesi abbiamo sicuramente già speso una cifra superiore ai 27 miliardi. Infatti quello che volevo arrivarle a chiedere, nel senso che a questo punto con questa cifra si va a tamponare un buco che si è già aperto quest'anno, certamente non è una notizia di poco conto, ma non è qualcosa che servirà quindi in prospettiva, da quello che capisco, professor Bordignon, anche perché poi ancora per molte aziende in realtà la cassa integrazione sarà necessaria e quindi sicuramente appunto questa è una cifra che non è destinata a bastare. No, certamente no, però si tratta comunque di un contributo importante su cui deve tenere presente che il fatto, siccome poi, come dicono gli inglesi, money is fungible, il fatto di aver ricevere questi come prestito da parte dell'Unione Europea, 27 miliardi, significa che noi non dobbiamo andare sul mercato a chiedere questi 27 miliardi, mm-hmm. sono soldi a disposizione su cui pagheremo tassi di interesse molto bassi e su scadenze probabilmente molto più lunghe di quelle con cui abitualmente mettiamo titoli, quindi è comunque un vantaggio finanziario considerevole, anche stabilizza in qualche misura anche il debito, perché questi soldi non dovranno essere richiesti, se non dovranno essere rifinanziati il rollover del debito fino a quando non sono scadenze, saranno probabilmente prestiti anche di lungo periodo, fino a 3 anni. Ecco, diciamo che sono soldi per i quali non si devono occupare le aziende per poterli ricevere, nel senso no, che... Sono soldi che vanno direttamente al... mettiamola così, questi sono soldi che vanno direttamente allo Stato, un prestito allo Stato, e lo Stato poi finanzia interventi specifici come la cassa integrazione e quant'altro. In linea di massima questo è uno strumento temporaneo, soltanto per affrontare il problema legato all'emergenza, infatti i paesi possono chiedere, fare richieste di questo tipo fino al massimo dei soldi stanziati, come lei ha già detto si tratta di 100 miliardi, fino al 31 dicembre del 2022. Poi però la Commissione si è anche prevista la possibilità di poter chiedere un'estensione dello strumento, sia temporalmente sia forse anche in termini finanziari, in futuro se l'emergenza non fosse passata. Quindi è uno strumento temporaneo. I paesi sostengono l'occupazione, ma è un primo passo che potrebbe anche prospettivamente diventare permanente se diciamo questo meccanismo di sostegno funzionerà, insomma, se i paesi non perderanno i soldi, eccetera. Allora adesso ci dirà appunto se lei crede che questo strumento potrà funzionare, quindi potrebbe diventare anche un qualcosa di permanente per affrontare eventualmente altre crisi future oltre agli effetti di questa crisi che non è certamente terminata, quella che deriva dal Covid. C'è stata oggi una dichiarazione del Ministro delle Finanze, del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha detto che grazie a questo finanziamento realizzato, come lei ricordava poco fa, attraverso l'emissione di titoli comuni europei, il risparmio per le casse dello Stato nell'arco di 15 anni potrà essere stimato in oltre 5 miliardi e mezzo di euro. Come avrà quantificato Gualtieri questo importo, nel senso che sono risparmi che derivano dal fatto che per finanziare questi ammortizzatori sociali l'Italia non si finanzia individualmente sul mercato? Esattamente, questo è l'argomento. Poi non sono in grado di giudicare se i 15 miliardi, se i soldi di credito sono giusti o sbagliati, dipende naturalmente dalla durata del prestito, però se lei pensa che avevamo già calcolato una cifra di un risparmio intorno ai 500 milioni per i 10 anni, per i 36 miliardi del MES che poi non sono stati ancora richiesti, quelli che erano però specifici per quanto riguarda la sanità, se la durata è più lunga è probabile che i vantaggi sono più lunghi. Noi siamo in una situazione un po' particolare al momento come paese, nonostante l'elevato debito, la crisi economica e quant'altro, abbiamo ancora tassi di interesse bassi, però su scadenze molto brevi, cioè nell'ordine al massimo 10 anni. Su scadenze più lunghe purtroppo i nostri tassi di interesse cominciano a crescere molto velocemente, per cui per noi è difficile indebitarsi sul lungo periodo, il che è un problematico perché in realtà tanto più lungo è il periodo di detenzione del debito, tanto più stabile sono anche le finanze. Il vantaggio di indebitarsi con la Commissione europea è che si permette di ottenere anche prestiti a durate molto lunghe, quindi non è improbabile quella cifra. Certo. Esattamente me la chiacchierata. In ogni caso, professor Bordignon, un'ultima domanda: materialmente, secondo lei, quando l'Italia dovrebbe entrare nella piena disponibilità appunto di questa cifra a partire da gennaio 2021, come tutto il resto? E questo dipende dalla decisione presa dal Consiglio. Io immagino però che siccome questo strumento è stato introdotto, già stato deciso a giugno, cioè i paesi non è che stiamo partendo da zero, i paesi hanno preso una decisione favorevole all'introduzione di questo strumento a partire dal 1 giugno del 2020, quindi io mi aspetto che le cose siano anche abbastanza rapide. Io personalmente io penso che questi soldi verranno dati non tutti in una botta sola, cioè è previsto che verranno dati, come si dice, in installment, cioè su scadenze diverse, però mi aspetterei che questi soldi siano disponibili prima. Certo. Professor Bordignon, grazie per essere stato con noi, buona serata intanto, a presto. E a proposito di ammortizzatori sociali, peraltro c'è una notizia che è arrivata anche in questa giornata, riguarda una categoria professionale che veramente ha avuto molte difficoltà ad avere nei mesi passati il riconoscimento di qualunque tipo di ammortizzatore sociale, proprio a volte spesso per i profili contrattuali che li legano alle aziende per le quali lavorano. Parlo dei lavoratori del settore sportivo. Allora, i lavoratori iscritti al fondo degli sportivi professionisti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga con causale Covid se hanno redditi fino a 50.000 euro lordi. Lo ha chiarito oggi un messaggio IMSS che ha annunciato il rilascio della procedura per la richiesta dell'ammortizzatore. La domanda, è stato sottolineato dal Ministero del Lavoro, è disponibile sul portale del sito IMSS, naturalmente nella pagina servizi online, e per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte, come per esempio richiesta e tipo di pagamento, sono preimpostate, quindi anche abbastanza intuitive per quello che riguarda la compilazione, non modificabili. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive, esclusivamente per le associazioni aventi sede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane nei limiti delle risorse previste. È tardissimo, c'è la pausa, tra poco. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta, e allora c'è un ascoltatore che mi prende in giro, come è spesso capitato in passato, quando sono alla conduzione di Focus Economia abbiamo delle giornate piuttosto brillanti. Non sono certo io a portare fortuna, perché ho avuto anche delle puntate con delle sorti avverse, ma oggi effettivamente c'è da dire che un po' di fortuna l'abbiamo portata. Non sappiamo se è merito mio di Maria Sole Lisciandro, che oggi appunto abbiamo dovuto gestire questa trasmissione, ma di fatto abbiamo sul finale di giornata una chiusura con un balzo del 2,12% per il FTSE MIB a Piazza Affari, più 2,28% Parigi, più 2,36% Francoforte, un po' più indietro Londra, ma in rialzo di quasi 2 punti, più 1,7%, molto ben impostata anche la seduta di Wall Street. Enrico Miele, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buonasera Enrico. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, in realtà da questa mattina Piazza Affari a brillare era ancora una volta la tecnologia, tutto merito di Apple, che trascina con sé tutti i mercati internazionali, tutta la tecnologia di tutti i pianeti dell'universo. E poi sul finale invece hanno ripreso a guadagnare posizioni i titoli del settore energetico e petrolifero. C'è qualche notizia in particolare sul comparto? Eni più 4%, Saipem più 3,85%. Allora, per quanto riguarda il comparto petrolifero, nelle ultime ore gli uragani vicini al Golfo del Messico hanno in parte bloccato la produzione di greggio in tutta l'area, e questo ha sostenuto le quotazioni del barile, o meglio ha contribuito a non deprimere le quotazioni del greggio, visto che il rialzo comunque mondiale dei contagi da coronavirus sta colpendo, come sappiamo, le quotazioni dell'oro nero. Come giornata in generale, in realtà il market mover è stato quello dei vaccini, cioè l'ipotesi di un vaccino anti-Covid ha dato speranza ai listini, che quindi hanno chiuso il rialzo nonostante, come detto, il trend dei contagi mondiali resti a livello di guardia. Quindi mentre Wall Street continua a macinare record sui titoli tecnologici, diciamo che gli investitori hanno messo da parte le preoccupazioni e hanno scommesso su una cura contro il coronavirus allo studio, ricordiamo, in diversi posti del mondo. Bene, e questa infatti è la notizia che indicavamo anche all'inizio, proprio come motivo di entusiasmo, chiamiamolo così, da parte degli operatori finanziari. Allora, andando agli altri titoli che oggi si sono ben mossi a Milano, vedo che il settore del risparmio gestito è stato pure particolarmente gettonato, con Banca Generali che ha segnato più 3,84% e poi Azimut più 3,66%, bene anche Leonardo Finmeccanica più 3,48, Pirelli più 3,44. Diciamo che da stamattina, lo dicevo poco fa, STM aveva una prestazione particolarmente convincente, sempre per il supporto che arriva dalla tecnologia americana. Poi sul finale ha perso un pochino smalto, ma tuttavia chiude con un più 3%. Notizie dalla tecnologia statunitense, Enrico? Allora, il Nasdaq, come detto, continua a macinare record, quindi ormai i titoli tecnologici, a partire da Apple, che pesano sempre di più non solo sull'istituto tecnologico ma sull'intera borsa di Wall Street, fanno da traino rispetto a questa corsa del Nasdaq nelle ultime settimane. In realtà, a dare ulteriore sostegno nelle ultime ore, c'è anche un atteggiamento più tollerante che sembrerebbe emergere da parte dell'amministrazione Trump sul fronte della cosiddetta guerra tecnologica con Pechino, in particolare con l'app WeChat, che era insomma finita al centro dei recenti strali di Trump. Invece sembrerebbe che ultimamente da parte dell'amministrazione di Washington ci sia una cauta apertura. Un altro tema di giornata, non perché abbia avuto una prestazione in borsa particolarmente forte, ma perché per la verità ci sono delle indicazioni che arrivano dal fronte governativo, è stata la giornata di Telecom, Enrico, perché? Esatto, sì, Telecom in realtà continua a non sciogliersi i nodi col governo sul dossier della rete unica. Come sappiamo, il là è stata un'intervista recente di Gubitosi in cui auspicava una società della rete a controllo di TIM. Ha risposto il Movimento 5 Stelle dicendo: bene la società della rete, ma non con il controllo di TIM. Il PD è andato in scia con il Movimento 5 Stelle ieri, nelle ultime ore, comunque Gualtieri, quindi il nostro ministro del tesoro, ha fatto capire che il governo considera con favore la nascita di una società unica, o meglio che questo è il focus. Cioè Gualtieri ha provato a distogliere l'attenzione sul tema della governance, sul quale evidentemente non ci sono vedute unanimi, lanciando un messaggio di accelerare su questo dossier che, come sappiamo, è aperto da anni. L'ultima stoccata della giornata è stata un'intervista a Bassanini di Open Fiber, che a sua volta ha invitato il governo dicendo: se non c'è un accordo con TIM, il governo vada avanti con una società per la rete unica in fibra in Italia, di cui il nostro paese ha bisogno, e la faccia con chi ci sta. Quindi è la dimostrazione che in tutti è condivisa l'esigenza di dotare il nostro paese di un'infrastruttura a grandissima importanza tecnologica. Su chi debba avere il governo di queste infrastrutture in realtà le posizioni sembrano ancora distanti. Ricordiamo, e chiudo sullo sfondo, che c'è sempre l'offerta del fondo americano KKR, che vorrebbe partecipare alla società FiberCop, cioè la società che racchiude non tutta la rete di TIM, ma solo l'ultimo pezzetto che va dai cosiddetti cabinet ai nostri appartamenti. KKR ha questa offerta in sospeso, in attesa che, insomma, che il governo e TIM facciano chiarezza su questo tema. Certo. A proposito di offerte, Enrico, l'ultima notizia che riguarda i mercati la diamo per quello che riguarda appunto il settore bancario. Si è conclusa l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UbiBanca, peraltro partita un po' in sordina, poi sul finale appunto chiusa invece con grande successo in termini di adesione da parte degli azionisti di Ubi, che hanno consegnato quasi tutte le azioni appunto ad Intesa. C'è però ancora una quota residuale, adesso parte proprio questa seconda parte dell'operazione, l'ultima, proprio per chiamare a raccolta tutti gli azionisti che ci hanno pensato fino all'ultimo, non consegnando praticamente i pacchetti in loro possesso, anche se magari immaginiamo che sia qualcosa ancora di piccolino in termini di capitale residuo. Sì, sì, assolutamente. Ricordiamo che Intesa ha superato il 90% di Ubi, quindi da lì scatta poi l'obbligo d'acquisto del successivo capitale restante. La presentazione delle richieste di vendita delle azioni Ubi a Intesa è iniziata oggi e si concluderà l'11 settembre. Ricordiamo che il potenziale ammontare massimo complessivo del corrispettivo in contanti, quindi l'esborso per Intesa, è pari a circa 398 milioni di euro, quindi comunque è una cifra insomma, importante per chiudere un'operazione che comunque è già stata segnata dal, certo, dal successo. Un'altra operazione, per la verità, di consolidamento, se guardiamo al settore finanziario nel suo complesso, che poteva essere pronta a decollare ma che poi è sfumata, è quella tra Nexi e Sia. Nexi, colosso dei sistemi di pagamento, oggi in borsa ha ceduto lo 0,84%. Qua c'è anche una sorta di fattore tecnico che però ha determinato questa discesa, Enrico, come ultimo tema di borsa di oggi. Esatto, perché i fondi di private equity, che detengono il 33,6% del capitale, in pratica ora possono vendere le azioni, visto che in scadenza il lock-up di 3 mesi, in conseguenza al collocamento dell'8% avvenuto ad aprile, la società resta comunque sotto i riflettori perché questo matrimonio sempre promesso e mai realizzato con Sia comunque darebbe vita a un campione nazionale unico nel settore dei pagamenti elettronici, digitali e tutti i servizi connessi, e quindi insomma sarà uno dei temi da monitorare nelle prossime settimane. Assolutamente, e ci mettiamo anche che potrebbe anche aprirsi un altro fronte di risico bancario, magari guidato da Banco BPM. Ricordiamo che l'amministratore delegato Giuseppe Castagna, dopo essere stato molto reticente in questo senso per molto tempo, nelle ultime settimane invece non ha escluso che la banca possa essere protagonista di qualche altra operazione più avanti. Ma lo vedremo, almeno non ci annoieremo nel prossimo autunno, non parleremo solo di Covid e suoi effetti devastanti sull'economia. Grazie Enrico, buona serata. Presto. Grazie a voi e agli ascoltatori. Abbiamo la pausa e poi andiamo a fare la conta dei danni del maltempo in Veneto. Focus Economia. Un'autentica tragedia, Verona, alcune parti della città sono letteralmente in ginocchio, lo vedete anche con i vostri occhi, ho visto persone con le lacrime agli occhi, avere un metro e mezzo d'acqua nei negozi, nelle abitazioni, vuol dire devastazione. Non posso non segnalarvi ad esempio quei giovani che hanno il laboratorio deontotecnico, sono 5 unità lavorative che si sono ritrovati con un laboratorio da buttare via. E alla luce di questo poi mi auguro che nelle prossime ore il governo faccia una decretazione d'urgenza e consiglio di ministro. Sì, è proprio il caso di dire piove sempre sul bagnato, non è certo questo il momento adatto, come se mai ce ne fosse qualcuno appunto per affrontare anche un'intemperia meteorologica, e ci mancava anche quello che è successo nelle ultime ore in Veneto, un Veneto che leggevo poco fa, pensate, questo Corriere Ortofrutticolo, che è il mensile di economia e attualità del settore ortofrutta, parla di Veneto in ginocchio dopo il maltempo che si è abbattuto ieri su buona parte della regione a partire dal Veronese, la zona più colpita, oltre a Verona, che è andata, e lo abbiamo visto dalle immagini, dai telegiornali, letteralmente sott'acqua. Anche i campi e le aree agricole hanno subito danni ingentissimi, enormi, in particolare alcune coltivazioni di kiwi sono state rase al suolo, per non parlare poi dei vigneti della Valpolicella danneggiati in maniera gravissima. Siamo in prossimità di iniziare anche la vendemmia e quindi vedremo insomma gli agricoltori del settore cosa potranno raccogliere. Stamattina la Coldiretti ha organizzato un summit proprio per fare la conta dei danni alle campagne dopo questo violentissimo nubifragio che si è abbattuto nel cuore della città, ma che non ha risparmiato anche aree circostanti, non ha risparmiato vigneti e frutteti dell'immediata periferia. Persino, sentite che cosa ho letto, la furia del maltempo ha devastato anche le reti antigrandine, atterrando coltivazioni appunto di tanti prodotti. In questo articolo si continua a citare il kiwi e sradicando viti con grappoli pronti alla vendemmia. Daniele Salvagno è presidente di Coldiretti Veneto. Buonasera presidente, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Allora, ci fa lei, io leggo dai giornali, dai siti internet, lei è lì, ci dia qualche dettaglio in più rispetto a questa furia devastatrice del maltempo che si è abbattuta nelle vostre straordinarie località. Che cosa avete? Sì. Questa è veramente una condizione inaudita, perché c'è stato questo temporale che è venuto dalla zona del lago di Garda colpendo marginalmente il lago, però si è spostato con una potenza importantissima nella zona dell'est veronese, ai bordi della nostra città di Verona, e veramente ha creato dei danni ingenti. Naturalmente la Valpolicella è un'area molto ampia e quindi siamo stati fortunati che ha colpito solo marginalmente in aree ben specifiche, però dove ha colpito ha veramente creato un disastro. E qua ne viene veramente la voglia di questi agricoltori che hanno avuto le avversità della cimice, hanno avuto il Covid, hanno avuto tantissime problematiche, non ci voleva anche questa. Ecco. Ci sono state delle zone, soprattutto anche nella zona di Bussolengo e Pescantina, dove è vocatissima per la frutta e sono andati giù proprio gli impianti con le reti antigrandine, hanno proprio divelto a terra tutto un lavoro fatto dai contadini in maniera importante, proprio per proteggere un prodotto così eccezionale come è la frutta di Verona. Però purtroppo al tempo non ci si comanda. Esatto, quando arrivano situazioni come questa, Presidente, è molto difficile difendersi, per quanto si possano mettere in pista protezioni, assicurazioni, le misure naturalmente più tutelanti possibili, ma è molto difficile fronteggiare tutto quello che deriva dagli imponenti cambiamenti climatici che stiamo vivendo, perché voi di questo parlate da molto tempo, Presidente. Non monitorate naturalmente solo l'andamento del vostro settore mese su mese, anno su anno, ma chiaramente tenete anche sotto osservazione i trend di grandi cambiamenti. Qual è la vostra riflessione su questo tema? Qui bisogna fare veramente una considerazione di ampio respiro, perché c'è il problema della tropicalizzazione sempre di più, la grandine è sempre più frequente e sono sempre più violente. Questo vuol dire che c'è un cambiamento in atto del clima, con un maltempo che genera dei costi che sono pazzeschi. Abbiamo stimato circa 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite di produzioni agricole nazionali e danni alle strutture, alle infrastrutture. Tenete presente che capannoni, ricoveri attrezzi, eccetera, sono danneggiati da queste violenti nubifragi. E noi purtroppo, da buoni contadini, cerchiamo di farci sulle maniche, ma non possiamo far fronte a questi cambiamenti climatici così imponenti. Quindi dovremmo veramente fare un retromarcia anche sulle emissioni della CO2, dovremmo cercare di limitare il più possibile quello che è un innalzamento della temperatura del suolo e soprattutto gli smottamenti, ne va per la conservazione del suolo, che è un patrimonio inestimabile per tutti, e quindi noi agricoltori ne siamo custodi, ma con le nostre sole forze non possiamo far fronte a questi eventi catastrofici. Certo. Insomma. Presidente, mi hanno raccontato male dicendomi che lei è un produttore di olio? No, noi come azienda produciamo come Redoro olio e vino, siamo proprio nel cuore del nord di Verona, e quindi abbiamo ancora maggior a cuore quello che può essere un prodotto così sano, così integro, così buono, che lo coltiviamo per tutto l'arco dell'anno, e arrivare proprio al momento della raccolta e dovercelo essere colpito. Per fortuna, come le dicevo, sono stati pochi gli ettari colpiti rispetto a una grande vastità della Valpolicella, però quelli che sono stati colpiti sono stati gran sfortunati e hanno veramente subito dei gravissimi danni. Certo. E farsi togliere la produzione di un anno di sacrifici è, secondo me, veramente... Lo possiamo immaginare, un anno che peraltro ha già avuto tutte le caratteristiche che conosciamo. Allora, abbiamo una notizia di una banca. Intesa San Paolo ha fatto sapere nel pomeriggio di aver stanziato subito un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito di questo eccezionale maltempo, appunto, che ieri ha colpito Verona e tutte le zone limitrofe. Un plafond destinato a famiglie, imprese, piccoli artigiani, commercianti, agricoltori che hanno subito danni, e per offrire loro un sostegno finanziario dedicato. Ci sarà la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti in essere, di accedere a nuovi finanziamenti a condizioni agevolate. E chiaramente, insomma, dal mondo bancario una risposta arriva, dal mondo istituzionale, insomma, che tipo di confronto avete avuto con Zaia, che ha già fatto sapere che vuole lo stato di emergenza? Beh, il nostro governatore è veramente sul pezzo, è stato presente anche qua sul posto oggi in mattinata, e quindi è veramente presente e sta cercando di fare di tutto per far fronte soprattutto ai cittadini, perché c'è stato, oltre che un problema nelle campagne, c'è stato anche un problema di allagamenti nel cuore della città a nord di Verona, e quindi per far fronte a quelle piccole attività che si sono trovate allagate o con delle attività sommerse dall'acqua e dalla tempesta. Ecco, noi agricoltori siamo sempre abituati a farci sulle maniche e andare avanti, non perdiamo mai la speranza. Però mi rifaccio quel povero odontoiatra che si è trovato tutto il laboratorio sommerso dall'acqua e quindi un lavoro di 12 anni buttato via. Ecco, questo penso che noi abbiamo una grande forza qua nel Veneto, che è una forza solidale, che cerchiamo di fare in modo di far fronte tutti insieme. C'era il nostro sindaco di Verona insieme con il governatore Zaia, che si sono dati da fare veramente in maniera precisa e puntuale per far fronte a ogni singola esigenza. Noi da parte nostra abbiamo le assicurazioni, abbiamo le coperture grandine bene o male su tutti i nostri agricoltori, però il prodotto è un totalmente sacro che noi lo dobbiamo portare in bottiglia e quindi è fondamentale preservare, e soprattutto per le strutture, anche perché a volte quando va giù una tettoia, va giù delle piante che sono piante secolari, una stalla, insomma, sono dei danni che non hanno uguali. Quindi bisogna che salvaguardiamo il nostro territorio, bisogna che tutti quanti insieme salvaguardiamo un'agricoltura che fa bene al nostro territorio, fa bene al nostro clima. In un anno in cui, per concludere, Presidente, vi è anche mancato il Vinitaly, perché necessariamente anche questa grandissima kermesse, una delle più importanti in Italia, è stata dovuta cancellare per il Covid, come tutte le grandi manifestazioni italiane, manifestazioni fieristiche. Vi è mancata quest'anno? Che effetto ha avuto questa? Assolutamente sì, è una delle kermesse più importanti a livello internazionale, nella quale è un bacino che tutta la città vive e ne gode i frutti, perché tutti gli alberghi sono pieni, tutti i ristoranti sono strapieni di consumatori dall'estero che apprezzano questo prodotto inestimabile, e il fatto di non poter aver fatto questa manifestazione è stato veramente un grande danno anche economico. Tenete presente che noi con Fiera Agricola avevamo fatto una manifestazione importantissima, imponente, proprio in pre-Covid sulla cimice asiatica, quindi siamo stati anche bombardati dalla cimice asiatica, che è una avversità che non ha niente a che fare con la nostra territorialità, ma bensì viene dall'altra parte del mondo. Quindi ecco, tenete presente che veramente dobbiamo far squadra, essere solidali per consumare prodotto italiano, consumare prodotto delle nostre aziende agricole, certo, per far sì di darci un'economia sana, tangibile e immediata, perché solo così possiamo aiutarci tutti insieme. Grazie Presidente, buona serata, grazie per essere stato con noi. Che cosa le devo dire per concludere? Passerà questo 2020, passa tutto, passerà. Assolutamente pure questo. Hanno bisetto, mamma mia, bisetto, grazie. Devo salutarla purtroppo, sì, anche per noi naturalmente. Grazie. Grazie al Presidente della Coldiretti Veneto, grazie a Maria Sole Lisciandro per la collaborazione in redazione, ad Andrea Roccabella per l'assistenza tecnica. Focus Economia torna domani sera alle 17. Da Deborah Rosciani a tutti, buona serata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it.